che tu sei. Come parlavo te di Franco, vai. Comunque buonasera. Buonasera a te. Parlo di Franco, buonasera lì, ma è confuso. Ma oggi non sono da Romagnato, l'altro giorno già poteva essere perché la voce ce l'avevo strana. Ah, cioè quasi la stessa voce di Franco. Sai. Quindi se ti biglia Franco non ti rabbia. Oh, per carità, perché devo prendermela? Assolutamente no. Caldo, ne fa da quella parte. Esatto, non ti ho capito. Aspetta, se caldo ne fa da quella parte. A di voi? No, non la sai uscire. Poi non si può stare, sono venuto a Piccicuso, adesso fra un po' mi farò la doccia prima di uscire, e poi mi sembra in bari e venivo a Bratamona a farmi un giro. Spiega a te, se ci ho parlato domenica a farmi un giro, ma non si può dire sta. Non sono riuscito, ma non si può dire stare in su lungo. No, perché bisogna scendere tardi, quando è un po' calato il sole, c'è il freschetto, ma so quanto si sta bene con quella dieta, ui. Ma c'è umidità anche, ecco cos'è. Quindi c'è umidità e ad voi si sta male. Ma prima c'è un bel freschetto, dai, prima dell'umidità venivo e dopo adesso non so se rate di umidità, no? È un caldo da grimbare. Ah, che così? Caldo gli avvenne il caldo. Ad voi c'è quel venticello e solo che non è nulla, fa cose a fare a fa. Allora che non fare a qualche d'ora a fare la passeggiata. Ma a qualche d'ora fare un sabato che vi avevo rubitari e mi faccio quattro risate. L'unica cosa è che c'è la gente che passeggia, però vedi che due ristoranti e buca e non ve altro. Perché entra a vino poi va. A Pratamona, no, voglio poi a prendermi il gelato, vedi? Che faccio la passeggiata col cane, no, già c'è la roba da fare. Allora dove escono i buguni? Cosa escono? I buguni! Ah, Giulia, no, ci sa che c'hanno, non sai di cosa fa Zarani, Giorgio Platamona. E comunque già può rinascere Platamona, se ci sono più imprenditori che gli piace rischiare, cosa? Guarda la parte Platamona, perché è una bella zona e si aprono locali e cose, vedrai come si ripopola. Quello è. Si aprono quello che devono aprire, ma sono i cibocchi che bisogna, boh. Ecco cosa è. C'è quello che è ex Arnesto, quello che hanno aperto nuovo. Poi c'è quell'altro, la gelateria. Poi vai avanti, c'è quell'altra di giù, che è un bar, e lì c'è musica. E poi io sono l'ultimo dove c'è il bar, che non c'è altro. E c'è il Brasile, che è fermo anni e anni e anni. Potevi ripristinarlo e mandarlo avanti, quello era un bel bar, mi c'era di tutto. Quello no. Non l'ha preso nessuno, perché quello voleva tutto aggiustato, voleva. E non l'ha pigliato nessuno, devi dire che non l'ha dato un padrone. Oh, c'è davanti il bar, hai capito? Quello che è sulla spiaggia. Io dico, sì, ho capito qual è. Come si chiama? Titanic. No, ma qui là che pizzeria, ci facevano di tutto, la sera si ballava sopra la terrazza, si ballava, facevano movida di notte, eccetera. No, era bello come locale, c'era di tutto. Era benvenuti. Cant'anni è? 10 anni, 12 anni già arrivato. E il mio guru, pezzo. Però io me lo ricordo quando andavamo al mare andavo lì a prendermi gelato. lì io ci ho mangiato anche la pizza, ce ne voleva mangiarmi la pizza del coso. O lì o da Ernesto, uno dei due facevo. No, più di tutti da Isu. E pure io sono andato diversi volte lì a mangiare la pizza, sì. Era bello perché era sul mare, tutto gatto, e c'era sempre un dirigente, sempre un deboli. Poi c'è l'ultima volta sono andato a quell'altro che c'è più giù, quella specie di, ci sono i ristoranti che hanno anche le sedie, che danno le sedie in affitto, quelle lì che c'è il ristorante lo stesso, sono entrato lì. Ma va, bisogna che provi a ghiaccio di Gozu, di dove c'era Ernesto prima. Dice che è un bel caro, Micio. Il Perucca non è aperto, eh. Un bel caro, eh. No, c'è un bel caro, non mi conviene più a lui. No, mi hanno detto che i pasti sono solo assaggini, non ti danno pasti da mangiare, sono assaggini, un assaggino di uno, un assaggino dell'altro, sai, ti piace una cosa, non è che ti mette ciò, ha chiesto solo assaggi. No, a me la sedia non mi piace, a me mandare via a non marrighi un piatto di gozu, di pasta e vongole, con i gozzi e cosu, tipo 140 grammi. Basta lo scudo. Hai compreso? E cos'è che mangi? E a me già mi piace. Fai che dice che devi pagare, però devi mangiare. Sì, passa lo scudo, mi piace pure a me la roba di mare, mi piace un bel, i frutti di mare, i crostacei, poi il pesce lo mangio, ma non è che mi caccia assai, mi piacciono i molluschi. Io non vedevo che fanno mangiare a minestra, mi ordino calamari con patate al forno. E lo devi prendito? Sì, a 140 grammi, quando mangia a minestra. Ma soccari, amico, a casa ti prenderebbe da un bel... Sì, l'altra volta che ci siamo andati, lì ho pagato 168 euro. Che cazzo, cosa hai mangiato? Aiuta. No, ero io, no. C'ero io, mia moglie, mia figlia, mio genero e i miei nipoti. Mi hanno convinti. Tutti i figli loro, gli danno si piglia la vettina con rinsalata. Gli danno un matesi fettina di cavallo con rinsalata. Mi figliora con la pasta con le vongole, mi nipote lo matessi, e d'altro prendete all'arrabbiata. Beh, se siete entrati allora ci va bene, dai. Noi pensavo che eravate solo tutto a moglie, tu che te ne sei dimagnato. Ma io sono una fortuna di Ferraocco, ma scendo al mare, all'una, sto salendo, li chiamo da portare via, mi faccio preparare che cosa da portare via. Qui a me lo devi cucinare, vabbè. Sì, io lo stesso, guarda, quando vado io di persona, con qualche amica, eccetera, ma non sono qui a portarla a casa, non me lo sono mai fatto portare da 140 casi, una volta mi pare, una volta solo. Però i calamari c'è poca gente che riesce a fare, sono tutti cingomusi, io li prendo, lo sai dove, ma, però vado io, a coso, a Blackstone, e lì li mangio buoni. Però ci vado io, perché lì si canta anche, capito? Mangi, canti la sera, sembra sabato sera, c'è di tutto di più. in un mondo vengivi. Sì, ma il sabato sera io lì no. Quando già ha visto un mattino. C'è il mondo lì. Ma non ci riesci, devi agitare un bel, devi agitare. No, non ti credere, ci sono tanti camerini che servono subito. Guarda, io ti dico una cosa, dove c'è molta gente vuol dire che la roba è buona, se c'è poca gente a chi non segue come tira un altro. No, dove sono andato a prenderli l'ultima volta, è quello di fronte a Meldon. Ah, ho capito, sì sì. E adesso poi hanno aperto tipo la città di ristoranti, che se non lo sai dove ce la passi in più lì. Hanno aperto quei di ristoranti, fanno grigliate, carne alla griglia, c'è la roccia, ci sono un sacco di locali. C'ero io, c'ero a febbraio, però sono andato al ristorante giù, sono andato. Siamo andati a tirare un compleanno di mia moglie e hanno voluto prendere la pizza. Già giù mangiato, mi ha svegliato alcuni frutti di mare, ma da boia di lutti, oi, ma giù grazie a Buddutu. E come mai? Forse non eri predisposto, o c'era qualche frutto di mare che non era fresco. Ma dove? Alla Ruccia, perché io ho mangiato da poco alla Ruccia, sono stato due sabati fa. Ho mangiato e abbiamo fatto il giro pizza, alla fine ti offrono anche il dolce fatto di pizza con la Nutella, ma buono. Sì, il dolce mi ha fottito. Ho preso il tiramisù e mi si è messo sopra lo stomaco, dentro di notte. E sicuramente è ghiaccio. Oh, quello che fanno loro, dove stai? La Ruccia. Loro l'hanno fatto, ma deve essere quello che mi ha presentito lo stomaco. Noi abbiamo fatto il giro pizza, abbiamo mangiato anche la pizza con l'anguria, col pepe. È veramente buona, a sentirlo sembra una fesseria, però la pizza dove c'è l'anguria col pepe è buonissima. No, io col pepe no, non vado d'accordo. No, se sei già mangiato io, se che è stato un bel mangiare, era un bel manna, quindi piano piano mi ha giù fatta pure, giù che andà buio, a ridere di mangiare, arrivederci. Io quando voglio fare il giro pizza assaggio un bel di gusti strani, perché solitamente io prendo o i frutti di mare o con le cipolle, da lì non mi ricavi, oppure con la zuppetta di mare, però da lì non me ne curi, però quando faccio il giro pizza mi piace assaggiarli tutti per vedere se ce ne sono buone, dai. Grazie da pigliata con i bolpetti, grazie da pigliata, insomma, però in famiglia. E vabbè, ognuno c'ha i suoi gusti, stravaganti quanto siano, ma ognuno c'ha i suoi gusti, dai. Con la l'abbiamo mangiata io e mio figlio e basta. Mia moglie non ne ha voluto sapere di mangiare, ma io l'ho mangiata ed era buona. Le ho detto, assaggia, no, non è buono, non mi ispira. Io già ci vado, forse mi chiedo già, vado, non so se organizzare con mio genero a fare che cosa, non so, lo può chiedere a mia figlia. C'è da già un produttore che c'è Pierino e faccia fare delle risate. Oh, in Viale Porto Torres. Oh, a Porto Torres, nella piazza della Renalita, c'è quello dove la Renalita. Vedi lo spettacolo. C'è Pierino, quello che faceva prima, te lo ricordo, era Paolo Vittale. Sì, lo conosco. C'è spettacolo, canto, c'è lui che racconta le barzellette, ce ne sono di bussi di cantanti, di cose. È uno spettacolo grosso perché è la festa di Muratori. Ma c'è festa anche qua a Sassari, la festa dei muratori è anche qua a Sassari. Le due. No, mia fanno il tre. E cosa fanno a Sassari? A Sassari ci sarà la processione, ci sarà a Santa Maria, ci sarà... No, a Santa Maria no, non ne vado né di Gozio. E vabbè, ci sarà il complesso, lo metteranno prima, boh. Non lo so, io di Sassari non ho sentito nulla, so di Porto Torres che è Alvaro Vitali e... Non me lo perdo perché a me mi piace un bel, io mi sono guardato tutti i film su, anche quando lo davano dopo, su Canale 7, e mi guardavo tutti i film su. Dove rimane? In quale piazza rimane? Aspetta, è la Renarina, allora, praticamente fai via Lungomare, in fondo, è quella di piazza della Renarina, che c'è la tua cappella Porto e poi c'è piazza della Renarina. Alla faccia la torre? No, il rifornitore ce l'è presente. Ah, dove c'è il giardino? Già, tu gli piazza della Renarina, dove c'è quel giardino. Sì, ho capito. No, ho capito che lo fanno lì. Vicino allo scoglio lungo, da. Prima, dai. Via Lungomare sarebbe la zona, via Lungomare c'è dentro a Capire Porti, entri dentro a Capire Porti, qua la piazza che c'è sulla destra, appena entri è piazza della Rina. Dopo l'ho preso. Ho capito che è tutto lì. Ma c'è le feste che fanno lì, ho visto delle roba lì, complessi e tutto di più. Ogni sabato c'è qualche cosa. Vabbè, sabato scorso c'era pallacanestro, pallamano, e non me ne frega nulla, sono andato a vedere altra roba. Così. Vabbè. Io no. Non c'è più niente nulla. Anche l'abito me ne vengano anche a casa. Ah, a me mi piace fare il pipistrello, siamo pronti, sono sempre. Mi piace girare, vedere la movida. Noi non mi piace essere a me a guidare di notte. No, non sono più come prima, che giravo parecchio. No. Adesso vedo con mio cognato, ma con mio... genere cosa ne sa pure. E infatti, magari lui è più giovane e ti trascina. Ma trascina già mi trascina. Me lo dice lui stesso, facciamo qua, facciamo là. E mette butta. E è vero che va su, se c'è la novità. Scusiamo, lo vedi, ci racconta Barzellei che fa pisciare dalle risate. E andare alla pizzeria che c'è lì vicino, prima, e poi ti metti a ascoltare. E noi faremo noi, andiamo alla pizzeria Garibaldi di dietro, e poi andiamo a piedi. Cerchiamo un posto per la macchina perché sarà un problema a trovare posto. Gesù sì, ce la devi buoni anche un metro lontano. E io ho detto che perché devi andare un po' presto, se non ci vuole un momento non acciappi di lungo. L'unica cosa che devi fare è portarti da 30 rubucci. E lì l'abbiamo messa quando è sabato scorso, l'abbiamo messa lì. L'unico posto dove tutti se la mettono vicino e tu ce la devi pulire mezzo da rubucci. Ah, ma è vicino al posto, non è che... guarda, era pieno anche di dentro, era tutto pieno, perché la gente adesso riesce a prendersi un po' d'aria, è normale. Sì, è così, sì. Ciao, io te devo lasciare perché è venuta gente. Ci risentiamo alle prossime. Ehi, altro là, ci sentiamo, buona serata. Gio Maria, non è entrato oggi, cioè sta bene, sì. Non lo so, è due giorni che non lo sento. Quindi, anzi, è da venerdì che non lo sento. Vabbè, magari anche Lugardo che non gli ispira a entrare. Vabbè, ecco, ci sentiamo, buona serata, ciao ciao. Ok, ciao già.